e tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani. Tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quello che state facendo sarebbe, Presidente, drammaticamente finito da un voto che non rispetta la legge, inaudita gravità. Ma io ho capito, altro che plotone di esecuzione. Io temevo, pensavo che vi fermasse un certo limite. Voi siete andati al di là del plotone di esecuzione. Poi mi sembra faccia... camera a gas addirittura. Mi faccia tu. È una fiamma che esplode nel cielo. Adesso, signor Schifani, caro dottore Schifani, si può dire di tutto, no? Si può dire di tutto su Berlusconi, si può difendere Berlusconi in mille modi. Mettere in campo la parola camera a gas, per la giunta che deve decidere se far decadere Berlusconi o no, mi sembra, ecco, un tantinello eccessivo, per non dire vergognoso. Alcuni dicono vergognoso, non si possono chiamare in causa le camere a gas. Parenzo, tu ti senti chiamato in causa da questa cosa, sì o no? Adesso ce lo dirai. Ma come chiosare? Schifani, hai detto tutto, hai detto la parola Schifani, hai già detto. Cioè, te fa schifo, questo vuoi dire? No, non lo dico io il suo nome. Hai detto tu Schifani. Ah, è onomatopeico, chi è che lo dice? Questo è il mio compito, ma non è solo onomatopeico, c'è, cioè, del Dario suono. Fo, Dario Fo, Dario nel Fo. Nome la parola, nel nome i destini, com'è che diceva quel detto latino? Io sono ignorante, non lo so, il detto latino, come dice, nel nome i destini. D'altra parte vogliamo ricordare quello che ci ha detto Omen. D'altra parte vogliamo ricordare quello che ci ha detto ieri Rotondi a proposito della Corea del Nord, processo sessuale a Berlusconi come in Corea del Nord. Guardate, cari ascoltatori, che io in realtà sui processi a Berlusconi magari la penso come Rotondi, la penso come Schifani, adesso come Schifani magari no, però insomma, però non è che dico che è un plotone di esecuzione, è una guerra. In questo momento la guerra è stata vinta, una battaglia importante, forse anche la guerra è stata vinta da un magistrato di Milano che gliel'ha messa in quel posto. Il processo sessuale, perché di questo parliamo, su Berlusconi e Fede è uguale al processo della dittatura nordcoreana sull'ex fidanzata del dittatore, fucilata perché aveva un amante. Sono andati a guardare con chi scopava la signorina e poi l'hanno fucilato. Ecco, in questo caso è andata ancora bene, perché più o meno i due arrivi signori sono ancora in buona salute e circolanti, ma le differenze si fermano qui. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sono. La ricercatrice Cattaneo, neo senatrice a vita, spero per lei fino ai 120 anni, e per le finanze pubbliche non è un bel acquisto, diciamo, no? Però noi vogliamo farla campare fino a 120 anni, mica le auguriamo di chiudere prima, per carità, si dovrebbe dimettere, dovrebbe rinunciare, ma questo è un altro discorso. Però la signora Cattaneo dice: prenderò il primo stipendio, devo pur vivere. Iniziamo bene. Avrò un secondo lavoro. Il mio primo lavoro ovviamente perderà lo stipendio, perché non c'è compatibilità, giustamente, no, di stipendi pubblici. Ovvio che qualcosa per vivere uno deve portare a casa. Prima della rissa oggi alla Camera c'è un meraviglioso duello tra la Casellati, PDL e Travaglio. Andiamo, è tutto da gustare, andiamo. Lilli, io ti ringrazio, ma io chiudo qui, perché è assolutamente impossibile in un collegamento, senza riuscire a finire una sola frase, interloquire con le puttanate che dice questa signora, quindi che vada avanti da sola con le sue puttanate. Lei, oltretutto, una persona senatrice, per favore, siamo tutti educati e facciamo... Ma io vado via io, perché voglio dire, una persona che si permette di dire questo, secondo me è bene che se ne vada, o va via lui o vado via io. Ecco, allora, prima che uno di voi due se ne vada, vi posso far vedere il punto di Paolo Pagliaro? No, ma io voglio dire che credo che il rispetto, il rispetto qui va garantito per tutti. Il presupposto di ogni discussione è intollerabile. Il rispetto è garantito, la mancanza di rispetto di quest'uomo. E vorrei adesso farvi vedere il punto di Paolo. Però io devo dire la verità, non so cosa sia successo, perché ho preso delle cose, non ho seguito tutto. Se uno dice che l'altra persona dice delle puttanate, è un termine che si può usare, diciamo la verità, dice delle puttanate, basta, uno risponde no, non sono puttanate, perché uno, due, tre, poi magari sarà successo dell'altro, non lo so. Legittimo. Vabbè, comunque la Casellati si becca anche se sta zitta è meglio da un uomo mite di solito come Marcello Sorgi. Data, questa cosa non detta, questo compromesso, questo compromesso, ma se lei mi lascia parlare siamo tutti più contenti. La spina, intanto l'hanno staccata la camera sulle riforme. Non è che questo Sorgi, è quello che prego, sto dando ragione, sì, io le sto dando ragione. No, ma non ho bisogno che lei mi dia ragione, se lei sta zitta è meglio. Sto dando ragione, se io interloquisco, se no che ci sto a senatrice, ma perché non ci lascia parlare? Allora Sorgi, prego. Parlare. Momento pannella, la mia storia, la mia storia radicale sazia l'umanità. Senti. Io però in questo modo, questa storia da radicale, questa storia con Emma Bonino, con gli altri eccetera, è una storia che permetterà, credo, a concorrere a che l'umanità sia saziata della sua necessità di felicità, di giustizia, di bello. Beh, ma adesso che l'umanità sia saziata nella sua sete di giustizia dalla presenza dei radicali anti... adesso... Beh, dai, su, basta, non mi fare parlare, sennò sembra che facciamo sempre una cosa contro pannella. L'umanità saziata dai radicali, e dai! No, noi abbiamo lottato per loro, per i diritti dei Falun Gong. Ma quali Falun Gong? Il diritto alla vita, il diritto all'aborto. Noi che diciamo vita, vabbè, comunque, diciamo viva. Vabbè, stai zitto, pannella, dai. Di Battista, 5 Stelle, PD, peggio del PDL. Poi è successo un casino alla Camera con la Boldrini che ha detto non si possono dire queste cose, eccetera, eccetera. Sì, è vero, abbiamo sbagliato. Siamo andati contro un regolamento. Però il male dell'Italia oggi, quello vero, è l'ipocrisia. L'ipocrisia. Quando noi sosteniamo che il PD è uguale al PDL, non è vero, ci siamo sbagliati. Il PD è peggio del PDL, perché se... Non offenda. Il malaffare ha rovinato questo no, paese. No, non offenda. Ma non si capisce perché la Boldrini interviene a dire non offenda. Non è che ha detto pezzi di merda, stronzi, testa di cazzo. Ha detto PD peggio del PDL. Non mi pare una cosa grave. Ogni tanto la Boldrini interviene per dire delle cose francamente inutili. Perché uno non può dire alla Camera il PD è peggio del PDL? Non offenda. Ma è come se poi fosse un'offesa. Cioè, dà per scontato peggio del PDL è un'offesa. Dunque, indirettamente offende il PDL. Io francamente non offenda. Ma che offesa? C'è una che ha detto infame, pezzo di merda. E dai, su, dai. Va bene, è con noi Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. Buonasera. Buonasera. Ciao Alberto, come stai? Meno male che la tua redazione ha detto come vuole essere presentato. Ha detto, ma per favore non presentatemi come medico di Silvio Berlusconi, non perché me ne vergogno. Ma come no? Come non vuoi essere presentato come medico? Ma che vuol dire non vuoi essere presentato come medico di Berlusconi? Quello sei, poi sei anche capo del reparto di rianimazione del San Raffaele, eccetera, eccetera. Però scusa, oggi leggo sul Fatto, Consiglio di Sanità, Lorenzin, che è il ministro della Sanità, chiama il medico di Berlusconi. Esatto. Alberto Zangrillo entra nell'organismo che consiglia il ministro. Che consiglia il ministro, certificò l'uveite che permetteva a Silvio di evitare i processi. Vabbè, lasciamo perdere la storia dell'uveite che tutti conoscono, ma poi vengo a scoprire in realtà che tu già c'eri in questo consiglio, sbaglio? Infatti è una svista, sì, sono in Consiglio Superiore di Sanità dal 2009, Però sai, io non mi faccio pubblicità, quindi. No, vabbè, ma lascia bene. Il Consiglio Superiore di Sanità è quello che consiglia il Ministro della Salute. Ma lo fai gratis? Lo fai gratis oppure retribuito? Assolutamente, tutti noi lo facciamo gratuitamente. Per cui perché quelli del fatto fanno così? Perché hanno scritto questa roba? Vabbè, insomma, sai, un po' di, lo sai, no? C'è un po' di malizia nel fare certi titoli, no? Mi ricordo un titolo di qualche tempo fa, un paio di anni fa, in cui appunto sul fatto su Repubblica c'era super compensi dei consiglieri dei ministri, i super compensi, ed era appunto un articolo, come dire, che partiva in modo denigratorio. Poi alla fine, siccome ero coinvolto, in piccolo nel contesto verso la fine dell'articolo c'era scritto Alberto Zangrillo, che comunque non percepisce alcun tipo di... Senti, posso chiederti una cosa? Dunque, questa cosa, Parenzo, che si può dire su questo? È sostanzialmente non pagato, e lì da consigli gratis, è meraviglioso. No, ma tutti noi, Allora questo è un... Però non è un po' bizzarro, scusami Alberto, non è un po' bizzarro che comunque tu sei il medico personale di Berlusconi, il ministro della sanità è Beatrice Lorenzin del PDL, nomina, anche se tu c'eri già, comunque poteva anche non nominarti di nuovo, nomina un nuovo Consiglio Superiore della Sanità, che è questo organismo, eccetera, eccetera. In Italia ci sono sempre tantissimi organismi che consiglia il ministro, utile o non utile, non lo sappiamo, secondo me tutti inutili, ma comunque... sbaglierò, adesso non apriamo la discussione. Perché ci sono invece delle cose estremamente importanti in cui un ministro che non è un medico e che non per forza di cose non conosce certi argomenti ha bisogno di essere consigliato. Vabbè, guarda, non so, le cellule staminali, la cura di Bella. Vabbè, però scusami un attimo, Alberto, c'è un po' un conflitto in questa cosa qua. C'è un ministro del PDL, che viene. Un ministro del PDL che nomina il medico personale di Berlusconi. Un minimo di conflitto c'è o no? Non lo senti? Allora tu? Io dovrei andare a lavorare all'estero se dovessimo continuare a ragionare in questi termini. In che senso? Perché tutta la mia vita allora è un conflitto. Cioè, voglio dire, lavoro a San Raffaele, che è, da detto di tutti, l'ospedale più eccellente che abbiamo nel nostro territorio, però... Ma quello è privato, però, è diverso. È privato, però eroga un servizio assolutamente pubblico. Sì. No, ma comunque non c'è alcun conflitto di interessi. Ti dirò, guarda, che io gli attestati di stima li ho avuto soprattutto da colleghi, evidentemente non è che siamo andati a vedere e verificare la carta di identità politica di tutti i miei compagni d'avventura. Sì, però... Però che sapevo perfettamente... essere indicati da precedenti ministri di centrosinistra, di area centrosinistra, che mi hanno sempre apprezzato per come sono riuscito a portare avanti il lavoro. Cioè, non ti mette in difficoltà una, siccome medici poi ce ne sono tanti in Italia, per carità, io so che tu sei anche bravo, però non ti mette un po' in difficoltà il fatto di essere nominato, essendo tu il medico personale di Berlusconi, da un ministro? Allora, vedi, potrei ancora dire, allora dire questo, scusa, quando a un certo punto si è esaurito il precedente governo Berlusconi, quindi eravamo nel novembre del 2011, è subentrato Balduzzi, quindi il governo Monti, no? Benissimo. E per quale motivo Balduzzi, che tra l'altro... Vabbè, perché voleva lasciare le cose come stavano. Assolutamente vicino a Rosi Bindi e quindi di quell'area, non ha colto l'occasione per farmi fuori? No, perché magari voleva lasciare le cose come stavano. No, volevo capire se non ti sentivi in difficoltà per una nomina fatta da un ministro del PDL. No. Guarda, nella maniera più assoluta, io poi peraltro con questo ministro ci ho parlato una volta e ci ho parlato per ragioni istituzionali. Dunque non la conosci, non la conosci nemmeno. Traffico, torniamo subito. Evidentemente non la conoscevo. Traffico. La Zanzara. Le zanzare di casa. Eccoci, Davide Parenzo in collegamento da Roma, Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, in collegamento da non so dove, da casa sua, dalla macchina, col telefonino. Dalla rianimazione. Dalla rianimazione. Senti Alberto, ma... Beh, c'è qualcuno da rianimare lì o no? Qualcuno ci sarà sempre. Portateci qualcuno ogni tanto quando arriva l'ambulanza. Ce ne sono tanti. Ma voglio capire una cosa, Alberto, ma per te è una... fare il medico di Berlusconi, dal Alberto, punto di vista professionale... Sì, poi posso chiamare Alberto. Mi do del tu, perché qual è il problema? Non sono così ipocrita da darmi... Ti danno del tu, sono amici. Avanti, scusa, stavo parlando qui con una, vai pure, scusami. Ma scusa, che vuol dire? Non è che sono ipocrita da dire lei, no, eccetera. No, tanto abbiamo detto, vai. Hai detto, che hai detto? Allora, Alberto, quali sono i tuoi ultimi successi? Ma no, non gli ho fatto questa domanda. anzi ho detto che al posto suo essere nominato, lo dico, al posto suo essere nominato da un ministro del PDL, no, sarei in difficoltà, per cui che vuoi di più di questo? Poi, ma sembrano le mie interviste a quelle del PD, Parenzo, uguale. Ma al dottor Parenzo consiglierei, a parte il fatto che mi farebbe piacere che lui mi desse del tu, ma consiglierei appunto di... come dire, valutare la situazione da un punto di vista anglosassone, no? Sì. Quindi mi dà del you e quindi non abbiamo problemi. Non è né lei, no, ma sembrano, vedi Alberto, sembrano le mie interviste a quelle del PD, no? Caro Letta, allora, mi dici i tuoi ultimi successi. Ma non ho detto questo, ma non è così l'intervista, abbi pazienza, non è questo. Allora, il fare il medico di Berlusconi è un danno dal punto di vista professionale per te, sì o no? Beh, dal punto di vista professionale è un grosso onere. Ma un danno, voglio capire. Sì, è un danno. Beh, guarda, con molta chiarezza ti dico che, per dire, nel contesto dell'istituto dove io lavoro, io ero stato a un certo punto votato democraticamente da tutti i colleghi per diventare rettore, quindi avevo letto, quindi voglio dire, insomma, se... E invece che è successo poi? Dell'università, e non lo sono diventato perché... qualcuno Parenzo non ci crede, e come no? Parenzo non ci crede, non crede a questa cosa qua. No, dico a Parenzo di andarsi a leggere quello che diceva di me la professoressa De Monticelli, che è una docente della facoltà di filosofia del mio ateneo, e io praticamente sono stato attaccato pesantemente perché era inammissibile che il medico di Berlusconi potesse diventare rettore. Però scusami Alberto, tu hai a questo tipo di concetto, ho capito. Questioni più meno delicate, più correnti di tutti i giorni, e capisci quello che uno deve tollerare. Allora, certo. Parenzo, non sei curioso di sapere quanto si guadagna a fare il medico personale di Berlusconi? Non so che non ce lo dirà mai Alberto. Poi però ho anche un'altra domanda per Alberto. Perché poi c'è l'altra faccia della medaglia, magari facendo il medico personale di Berlusconi si guadagnano un sacco di soldi. Ah, no, guarda. Ce lo fai gratis? Non lo faccio gratis, e comunque sono delle questioni, come dire, personali, che rientrano, lo comprendi anche tu, in una sfera privata, però sicuramente... Non si diventa ricchi? No, assolutamente. Guarda, ma io non ho mai fatto, e tutti quelli che lavorano con me e che si dedicano, adesso non voglio fare della demagogia, comunque che sono in ospedale dalla mattina alla sera, credo che la questione denaro sia veramente irrilevante. Comprendo che, voglio dire, è molto grave quello che dico, perché il momento è difficile per tutti, ma è difficile anche per noi. Scusa la roba, perché ho letto oggi sull'Unità che il professor Cancrini, che è un suo collega, ma lui è psichiatra e psicoterapeuta, oggi Cancrini dice che Berlusconi è affetto da un disturbo narcisistico di personalità, un disturbo gravissimo, narcisistico di personalità. Lei che è medico ha riscontrato anche lei questa teoria? È professore e psichiatra, signor Cancrini. Lo so, però Parenzo, ma lei andrebbe, come dire, a farsi curare o comunque affidare la propria salute a chi si permette, come dire, di fare delle diagnosi semplicemente per... Cioè nessuno dovrebbe andare da Cancrini, insomma. Ma questa è la cosa. Io non so nemmeno chi sia, comunque. Ma no, ha scritto una cosa, Cancrini, psichiatra e psicoterapeutica, Berlusconi è affetto da un disturbo narcisistico di personalità. Di quanto questo disturbo sia grave ci parlano le cronache. Comunque io puttanate, prendo come un autorevole contributo alla mia professione, ne terrò conto. Scusa, Alberto, ma no, dobbiamo tornare a tu. Ma Berlusconi, per la sua salute, deve rimanere senatore? Cioè, se non diventasse, se fosse, diciamo, destituito, mi fare entrare in questioni di cui sai che non mi sono mai voluto. Ho capito, però avrebbe delle conseguenze anche sulla salute. Innanzitutto, in questo momento è stressato oppure no? Io credo che quello che sta capitando sia stressante e sia stressogeno per tutti gli attori, no? Per tutte le persone coinvolte. Immagino che siano stressatissimi anche coloro che questa sera alle 20 fanno parte di una consulta che si riunisce. Cioè, dovrebbero tenere conto della salute di Berlusconi? Per chiunque, è stressante per il governo, per il paese, è stressante per tutti noi. Stiamo vivendo un momento terribile. Però voglio capire una cosa: la destituzione di Berlusconi ti provocherebbe dei danni di salute, secondo te? Dei danni dal punto di vista della salute? Non credo. Non è questo. No, non e il carcere invece? Sì. Ma non credo. Cioè lui sarebbe pronto dal punto di vista, come dire, fisico? Stai cercando la battuta, No, sarebbe pronto dal punto di vista, come dire, fisico, ad andare in carcere? Sarebbe brutto, certo, sarebbe veramente... D'accordo, brutto lo sappiamo, per tutti e chiunque, ma sarebbe pronto fisicamente ad andare in carcere? È un uomo coraggioso, quindi penso che alla fine In questa, allora, in questi ultimi tempi veramente tutti coloro che veramente gli vogliono bene, perché poi bisogna appunto distinguere tra coloro che gli vogliono bene e coloro che, come dire, sfruttano l'occasione per dispensare buoni consigli, no? Perché potrebbe essere l'occasione, come dire, per dire la propria. Io ho notato che fortunatamente l'uomo si è chiuso in un ristrettissimo consesso di persone che gli vogliono bene, prima di tutto veramente i figli, no? E poi quelle due o tre persone veramente fidate, e io credo che alla fine, come dire, tutto quello che verrà fuori appunto da... Ma da come medico sarebbero meglio, allora, nell'ordine, il carcere, i servizi, i domiciliari o i servizi sociali? Sarebbe meglio che questa storia veramente finisse per tutti. Per cui fai l'appello del medico di Berlusconi al PD, qual è? Salva Berlusconi? No, tutti si devono comportare. No, al PD, cosa vuoi dire tu al PD? Non mi posso permettere, no, veramente, io spero e penso e voglio continuare a credere che tutti abbiano... Vabbè, ma al PD cosa vuoi dire? È una coscienza per fare le scelte. No, ma al PD vuoi dire che bisogna tenere conto pure che il fatto che un uomo è o no? No, ma io sono estremamente rispettoso del fatto che ci siano delle persone che politicamente si trovano a dover esprimere una posizione che può avere dei risvolti anche, come dire, anche di salute, anche spiacevoli, no, anche... ma spiacevoli per tutti. Vabbè, e un quindi, attimo, ho il giornale radio. Giornale radio, giornale radio. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. E ancora il caso. Punta il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. Ma lei gira sempre intorno a me. L'ennesimo show alla Camera di Buonanno. Buonanno, Lega Nord. Garibaldi ha diviso l'Africa. Ma io mi chiedo perché ci sono gli extracomunitari che devono raccogliere i pomodori, loro non sono capaci di andarli a raccogliere, invece di piangere sempre. Allora la ragione è che Garibaldi ha unito l'Italia ma ha diviso l'Africa. Garibaldi ha unito l'Italia, ha diviso l'Africa, ovviamente non era la Camera ma quinta colonna, tanto ormai è lo stesso, perché non si capisce più se queste cose vengono fatte alla Camera oppure nei talk show. È uguale ormai, no? È esattamente la stessa cosa. Sì, no, ma oltre a questo, ovviamente, considerazione giustissima, signor direttore. Ma la cosa da ricordare è che ogni volta che io sento il signor Buonanno, capisco che ce la può fare chiunque. Cioè, quando sento anche le sue analisi storiche, le sue acutissime cose, penso che chiunque ce la può fare. Ma chiunque! I professori meridionali non sanno l'italiano. Good. Sempre lui. Buonasera a tutti, io raccolgo la provocazione che ha fatto il signore della Lega. Volevo semplicemente ricordare che forse anche grazie a noi cittadini del sud che abbiamo portato la nostra migliore manovalanza. I migliori medici sono i nostri. I professori che non sanno civilizzato parlare l'italiano. Siamo i professori che non sanno neanche parlare l'italiano. Però devono dirci grazie anche a noi. Io semplicemente vorrei dire una volta col bacio e poi all'altro. E poi un'altra cosa meravigliosa, la Mussolini contro Librandi. Mussolini versus Librandi. Sai chi è il dottor Librandi? Te lo ricordi? Sì. Come no? Lo incontrammo anche a colazione una volta, è di Scelta Civica, è di Monti, no? Sciolta Civica in realtà. È il tesoriere, anzi, è il tesoriere, se non sbaglio. Di Sciolta Civica o di Scelta Clinica? Scelta Clinica, perché insomma non esiste questa... Sì, mi invitò, guarda, una volta a pranzo, ma tanto prima di diventare senatore, e pagò lui il conto, questo anche me lo ricordo. Perché affonda il becco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Sono 20 anni, non avete fatto niente, non avete fatto le infrastrutture, niente. Giuda. Capisce? Giuda. Allora, le posizioni sono chiare. Ascolta. Giuda. Sì. Ascolta. Ascolta, guarda che quella Mussolini lì gli fa ritirare Giuda, perché sennò gli insulti li posso dire anch'io a lei. Chi non va contro la sull'Isis? Ricoglionita! Ma dai, Librandi! Ma dai, mi dici Giuda, non gli dici niente! Ma vabbè, ma Giuda non è, ma se no allora qui si... Dai, su! Beh, qui siamo al top, la signor Del Debbio, il quale se la ridacchiava, se la ridacchiava sotto i baffi, dottor Del Debbio. Ma dai, non si dicono queste cose. No, no, su uno alla volta, rincoglionita, e già vedeva il giorno dopo il graffichetto dell'Audi, del tutto. Grande. Ancora Mussolini versus Librandi. E se sono stanchi di sentire ora la Mussolini. Librandi, tu sei Giuda. Allora, cosa ci capisce? Che adesso Librandi questo devo replicare. Sì, sono contenta, maschilista, che tu te ne sia andato dal PDL, perché fai il paio con la giornalista incinta che non ha avuto alcun tipo di rispetto a Cernobbio, questo lo dico anche a Bonanno. Ma chi era questa qua? Vabbè. Librandi, bisogna dire che questo di sciolta civica o scelta clinica, Librandi era appoggiò la Moratti durante la campagna elettorale, poi sì, ha rotto con Berlusconi e si è messo con Monti criticando il PDL, eccetera eccetera. Vabbè. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Fra poco la nuova seduta della giunta per le elezioni su Berlusconi. Tensione altissima, ma si cerca un'intesa per rinviare il voto finale. Vertice dei ministri PDL a Palazzo Chigi. Alfano: vogliono eliminare il Cavaliere. Il PD replica: basta capovolgere la realtà, è lui il condannato. Letta diserta al convegno PDL. Palazzo Chigi punta a tenere separato governo dal problema decadenza, ma in caso di rottura sfiducia in Parlamento. Passa nel caos alla Camera il DDL sulla riforma costituzionale. 5 Stelle scatenano la contestazione, la Boldrini sospende la seduta. Visco, Banca Italia, l'instabilità politica frena la ripresa, lo spread ne risente, l'Italia sorpassa la Spagna, PIL ancora giù. Il piano russo per un controllo degli arsenali chimici di Assad, accettato da Damasco, piace a ONU ed Europa, cauti gli Stati Uniti, ma la diplomazia di nuovo al centro. Diamo i conventi chiusi ai rifugiati, lo ha detto Papa Francesco oggi in visita al centro Astali dei Gesuiti. Poi il richiamo: le differenze non devono fare paura. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Poi scusa Parenzo, se la prendono con noi perché diciamo cazzo ogni tanto, qualche parolaccia, se non entriamo nei dettagli, altrimenti le ripetiamo così senza senso, no? Cioè, ma ragazzi, andatevi ad ascoltare, andatevi a leggere i resoconti della seduta oggi al Parlamento italiano, e dico i resoconti oggi al Parlamento italiano, in cui a un certo punto Di Battista, uno dei 5 Stelle, ha detto: fuori i ladri dalle istituzioni. Ma una cosa normale, per carità. E gli hanno risposto: pezzo di merda, risse, una cosa pazzesca, dai. Ma che mondo è quello in cui la Gelmini, mesi dopo, solo perché adesso le conviene, dice che votare la Severino è stato un errore? Io credo che la legge Severino sia stato un secondo errore. Io l'ho votata, noi l'abbiamo votata, ma l'abbiamo votata sull'onda emotiva. Vi siete sbagliati? Dei casi, guardi, non banalizzi. Sull'onda dei casi emotivi, che giustamente su un'onda di indignazione del paese, che c'è stato a seguito del caso Fiorito, del caso Penati, del caso Belsito. Cioè, voglio capire, voi votate le leggi senza capirle, senza analizzarle, senza valutare le conseguenze sull'onda emotiva. Dio mio! Perché uno deve dire così? Perché? Cioè, uno basta che dice: adesso la legge Severino viene applicata a Berlusconi e noi non vogliamo che si applichi a Berlusconi. Ma amici miei, oppure all'epoca ci conveniva presentare la legge Severino come la nostra bandiera, le liste pulite, per fare un po' di campagna elettorale, punto e basta. E dillo, no? E dai! E dai! Vincenzo da Brescia, 800240024. Vincenzo! Buongiorno Cruciani. Bada. Mi consenta una battuta in partenza e non mi insulti. ho trovato subito la linea, quindi vuol dire che da quando difende un pochino Berlusconi l'audience è crollato. Difendo un cazzo. Difendo un cazzo. Le sembra che quello... No, io non sto insultando. Infatti, no, infatti non sto insultando. Scusi un attimo, no. Ma tanto per fondo, ma vado con l'intervento di che? Innanzitutto adesso parlo io, poi lei vada con l'intervento. Va bene. No, no, ma va bene cosa? Va bene. Cioè, non è che va bene. Cioè, no, no, mi sono stupito di aver trovato subito la linea. Tutto ma qua. Che c'entra? Parlo... Ma cosa c'entra? Ma lei, vabbè, ma lei che fa? L'Audi, come si chiama? Audi Radio? Quello che fa? I sondaggi? Fa i sondaggi? Sai, no, ci capisce dire, qualcosa? Non ci capisce subito. Niente. Allora, posso andare avanti? No, non può andare avanti. Prima devo dire una cosa. Scusa, caro Vincenzo da Brescia. Allora, ho appena detto, ma forse lei non ci sente. Non ci sente. Allora, non ci sente bene. No, sulla Gelmini. Ha ascoltato o no? Sulla Gelmini. Ha ascoltato o no? Quello che ho detto sulla Gelmini. Ma guarda che non la sto accusando di difendere Berlusconi. No, ma come? Ha appena detto questo. Qualcuno l'accusa. Siccome qualcuno l'accusa di difendere Berlusconi. Oddio. Ultimamente ho trovato... Vabbè. Vada, Vincenzo, vada. Allora, ma io dico, in un Parlamento in cui abbiamo avuto toni negri, beh, e nessuno si è scandalizzato, brigadista, non è che stiamo parlando di uno qualunque, una cicciolina, adesso ci stupiamo di avere un Berlusconi. Cioè, che problema c'è? Abbiamo un paese che domani, se poco poco cade il governo, avremo un disastro in borsa, certo, lo spread ricomincerà a risalire, cioè... E ci stiamo preoccupando. Secondo me non è così, Vincenzo. Questa cosa, questo ricatto per cui non si può votare o l'unico governo possibile, questo è un ricatto assurdo che non tutti sopravviviamo tutti se c'è un altro governo oppure se c'è la crisi di governo. Sopravviviamo. Toni negri in Parlamento. Vabbè, Toni negri in Parlamento, sì, cicciolina, ma che c'entra? Abbiamo avuto anche per cicciolina. Cioè, è un problema tenere uno come Berlusconi in Parlamento? 10 milioni di italiani hanno detto che deve stare lì e noi lo mandiamo via? Un po' meno. Vabbè, quelli che sono, ma sentiamo fare i numeri. Scusate, no, allora, ci sono due problemi. Uno, una legge votata anche dal PDL che prevede la decadenza, alcuni dicono non è retroattiva, eccetera, eccetera. Primo. Secondo, ci sarà fra poco, il 20 di ottobre, il 19 ottobre, poi uno può fare la guerra. Per me è giusto che il PDL faccia la guerra perché la guerra comunque l'hanno fatta Berlusconi. Questo è un altro discorso, però la legge l'hanno votata loro, non è che l'ho votata io. Dopodiché c'è un altro discorso che il 20 ottobre il Tribunale di Milano rimodula, diciamo, ricalcola i termini, siccome è stato condannato in via definitiva, di interdizione dei pubblici uffici. Comunque la partita mi sembra segnata, punto. Dopodiché uno può resistere ed è giusto che resista, ma perché alla guerra come alla guerra. Stiamo parlando da settimane di questa cosa. Ma sì, ma allora qual è il punto? Ma il problema è più serio, lo dobbiamo risolvere non parlando. Che vuol dire? Qual è il problema più serio? L'economia, le cose? Beh, ho capito, perché il governo è immobile. Chiudono aziende ogni giorno, voi fate un bollettino di guerra su Radio 24 giornalmente. Va bene, quelli di quello. Non stiamo a preoccupare del problema se Berlusconi può stare in Parlamento o no, se è una risorsa per il paese che quest'uomo stia in Parlamento oppure un danno. Ma io non lo so. Va bene. Mi sembra che dopo che ci siamo tutti, vuole... ripeto i due nomi di prima che sono i primi che mi vengono in mente, ma lei ne verranno in mente sicuramente molti di più. Non lo so. Sembra che stiamo esagerando. Paolo da Macerata. Paolo da Macerata, grazie. Sì, pronto. Dica. Io ieri sera ero a casa ad ascoltare e vedere la televisione e sono capitato nello scontro Travaglio-Casellati. A me, sinceramente, che Travaglio sia lì a pontificare, a menare sempre questa storia. No, diciamo che non è abituato quando qualcuno gli mette lì va sopra la voce, lo interrompe, gli rompe le scatole, non è abituato, questo è vero. Infatti è uscito con le ossa rotte quando è andato con Berlusconi a fare il one-to-one da Santoro e lì si è trovato male. La Casellati si è difesa perché non sarà manco lei simpatica, ma qualcosa di diritto ne capirà facendo l'avvocato, e invece Travaglio ha sempre questa verità e questi sermoni, non se ne può più, insomma. Vabbè, lei tra Casellati e Travaglio preferisce Casellati. Abbiamo la borsa, sì. Torniamo subito, grazie Paolo. Sono proprio veramente arrabbiata, lei è un bestione. La Zanzara. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Fatto politica veramente. La mia politica la faccio adesso veramente sul serio, perché sto fondando il mio movimento che si chiamerà Figli dei Fiori. Come che si è un ritorno Figli dei Fiori, e che è un che ritorno occupa? All'ecologia. E di che si occupa? Allora, è ritorno alla natura contro l'inquinamento, infatti abbiamo visto che questi tagli all'auto blu andrebbero fatte da molto tempo, ed è un ritorno completamente alla natura. Sì. credo che dobbiamo andare tutti in bicicletta. Tutti in bicicletta. E abolire le auto in centro. Comunque, certo, sì, ho sognato Matteo Renzi. È una cosa facile anche questa, insomma, sì. Del resto la rivoluzione francese la fecero in bicicletta. Insomma. Ma guarda, il mio movimento è molto, diciamo, utopistico. Ecco. Nel nostro movimento noi vorremmo abolire praticamente le macchine, ecco, e tornare appunto... Tornare a più. Senta, in bicicletta. No, no, si fermi un attimo lei. A Mundelet per fa l'amore. Flavia Vento vuole abolire le macchine. Abolire le macchine! Abolire le macchine. Non ce la faccio. No, a me piace come il signor del debito, diciamo così, la interrogava, no? Quello mi piace. Mi spieghi meglio, scusi, le dava quasi retta, no? Quasi la compagnia, le faceva una carezza sui capelli, così, sì. Va bene, vuoi abolire le macchine, va bene. Allora, io vorrei tornare un attimo sul presidente della Camera, però, il presidente della Camera Boldrini, la quale dice, sì, ma ne dice parecchie, questo è il punto. Al grillino Di Battista, che si è permesso di dire una cosa moderata rispetto alle altre, che dice il PD è peggio del PDL, dice, sentiamo. Sì, è vero, abbiamo sbagliato, siamo andati contro un regolamento, però il male dell'Italia oggi, quello vero, è l'ipocrisia. Quando noi sosteniamo che il PD è uguale al PDL, non è vero, ci siamo sbagliati. Il PD è peggio del PDL, perché se... Non offenda. Il malaffare ha rovinato questo no, paese. No, no, non offenda. La prego, concludo, usi concludo un linguaggio consono senza offendere, per favore. Concludo dicendo, Presidente, con tranquillità, puniteci, sanzionateci se ce lo meritiamo, ma prima sbattete fuori dalle istituzioni i ladri che rappresentano... Basta, lei non può usare toni offensivi. Anche qui poi Bianconi del PDL ha detto pezzi di merda, eccetera. Ma sì, si può contestare tutto, ma ha detto sbattete fuori i ladri dalle istituzioni. Non mi pare che abbia detto delle cose toni offensivi. Ma che vuol dire toni offensivi? Sbattete fuori i ladri dalle istituzioni. Attenzione, parla Schifani. Parla Schifani. Aspetta, aspetta. La nazione è in trepida attesa. Parla Schifani da Sanremo. Degli ideali di libertà, di riforma del paese, di una giustizia giusta, di una modernizzazione dello Stato, di una riduzione del debito pubblico, un grande progetto di cambiamento del paese e di tutela delle libertà dell'individuo. Senta, Presidente, la dobbiamo salutare e abbiamo tante altre storie. Eccoci qui, Andrea da Siena. Buonasera, Andrea. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora, l'utente prima chiedeva un discorso serio. Io vorrei fare un discorso serissimo. Io sono un testimone oculare dei viaggi di Parenzo in Corriera. Sì. E quindi? E dunque? Allora, a Siena si usa il verbo berciare. Berciare vuol dire urlare. Ecco, sì. Parenzo sale sul pullman nella tratta del pomeriggio del venerdì, l'autista apre, accende il motore... E lui comincia a berciare. Beh sì, infatti è in collegamento. Ma dai, con quella voce stridula, con quei piedini che non toccano per terra, comincia a berciare dall'inizio alla fine della zanzara. Guarda, ma è normale, ma sta lavorando, è normale, ma qual è il problema? Scusa. Ma quello è un pullman serio, lì ci sono dirigenti del Monte Paschi, studenti, ma quale dirigente professori del Monte Paschi? Dell'università. Non è che lui sale e bercia, ma dai, la contessa e le piume. E lì c'è gente che è stanca, ha fatto una giornata, vuole dormire, sta studiando per l'esame, e c'è lui che bercia. Beh, c'è gente che lavora invece, c'è anche gente che lavora, e lui in quel momento sta lavorando. Io sono contento, perché io dico sempre, ho cominciato ad amare la zanzara quando ho preso la macchina, la tratta Roma-Siena, la FO con la macchina. Da lì non ho più incrociato Parenzo, ho cominciato a sentire la zanzara. Però Parenzo si fa una colletta, dico non tanto, una volta al mese ti si prende la macchina col conducente. Beh, questa potrebbe essere un'idea. Una volta al mese almeno, una al mese. Vabbè, fate questa colletta, così almeno voi utenti dell'autobus, per non sopportare Parenzo che vi rompe i coglioni col telefonino, che giustamente voi dovete dormire, dovete fare il pisolino, dovete pensare ai fatti vostri, così non vi rompe le scatole, sta lì. Però affittate sta macchina. Samuele, provincia di Urbino, buonasera. Buonasera, salve, siete voi. Stasera siamo al top. preferisco al top, io preferisco la top, ma dicevo le al top di lei ho capito al top, è ovvio, vabbè quello vabbè, a parte quello no, che gli è ovvio, però voglio dire le condanne di Berlusconi, ma via. Allora veniamo a quella del processo Mediaset. Allora tutti i bilanci li fermava con Falonieri, l'ha detto lui, l'ha ribadito ieri nell'intervista, responsabile so io, ma lui l'hanno assolto. Berlusconi nel 2003 non gli era più né presidente né amministratore. Vabbè, adesso, non, è che non è che stiamo arrivati al processo, però caro Samuele, abbia pazienza. Ho capito, vabbè, però secondo i giudici c'erano le prove? No. Allora c'è l'assunto che lui non poteva non sapere. Vabbè, Samuele, potevano sapere, e ripeto, sappiamo noi, c'hanno il consentimento di convinzione e l'han condannato. Ma ti pare un paese normale questo? Ma io non mi lo so. Lo strabismo giudiziario, questo è strabismo tipico di scarsa indipendenza morale. Vabbè, lei non lei pensa che ci sia un complotto della magistratura ai danni di Berlusconi, giusto? No, diciamo che ci e sono. E che pensa lei? Prevenuti nei suoi confronti. Ah, ok, che ho detto io. Prevenuto nei suoi confronti. Vabbè, insomma, che si siano messi d'accordo in primo grado, in secondo, in Cassazione, in particolare in primo e in secondo grado, la sentenza fotocopia per condannare Berlusconi. La Cassazione deve stabilire giudizio. Non di merito. Di no, ma ho capito perfettamente. Grazie, grazie Samuele, grazie. Abbiamo in collegamento, caro Parenzo, da casa sua il ministro della difesa dei fumatori, professor Antonio Martino. Buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Compatibilmente. Beh, le ho dato una grande carica, una grande carica, ministro della difesa dei fumatori. Ma questa per la verità me l'aveva già data la Federazione Italiana Tabaccai. Addirittura? Quando ebbi uno scontro verbale col ministro Girolamo Sirchia, il Consiglio dei Ministri. Non ci fu nomina peggiore per lei del ministro Sirchia, o no? No, è perché il ministro Sirchia aveva proposto di vietare il fumo nei circoli privati. Sì. A questo punto io ho perso la pazienza e gli ho detto: guarda Girolamo, anzitutto i circoli privati esistono perché i mariti possono fumare senza che le mogli siano loro a dare fastidio. In secondo luogo un circolo privato, è più privato di casa mia, perché a casa mia porto chi voglio, al circolo privato no. E tu vuoi vietare il fumo anche a casa mia. E lui mi disse: sei una persona pagata. Dissi: no, sono una persona pacata. Ma pagata da chi? Pacato ti piglierei a schiaffi. Ma pagato che lui intendeva dalle multinazionali, queste roba qua? Probabilmente. Il risultato è che l'indomani a Palazzo Baracchini, sede del Ministero della Difesa, ricevetti una scatola di sigari toscani Millennium. Addirittura. Sono eccezionali. Con un portasigari in pelle di struzzo e accompagnati da un cartoncino la Federazione Italiana Tabaccai, la nomina ministro della difesa dei fumatori. Ma insomma, lei è veramente al soldo delle lobby del fumo? Sì, praticamente io ho fumato 285.000 sigarette. Ma veramente? Ma non tutte in un anno, se no avrei un po' di raucedine, non potrei parlare. In quanti anni? In tutta la sua vita? 52. Io ho fumato 12 sigarette al giorno. Vede, il grande Paracelso ci ha lasciato una lezione che non dobbiamo dimenticare. Tutto è veleno, niente è veleno, è solo la dose che fa il veleno. Se lei beve 100 litri d'acqua al giorno, le fa male. Cioè, 12, lei sta dicendo che non c'è nessuna sostanza che assunta al di sotto di una certa quantità faccia male, neanche l'arsenico. Cioè, lei, secondo lei, fumare 12 sigarette con al giorno con moderazione non fa male a nessuno, anzi, la sigaretta, guardi, fa bene. Mi ha tenuto compagnia nei momenti di noia, ha sottolineato i miei momenti di gioia, mi ha sollevato dall'ansia quando, per esempio, dovevo fare gli esami all'università, fumare la sigaretta prima, mi liberava dall'ansia. Cioè, lei lo consiglierebbe? Guardi, io non amo il caffè, ma lo bevo perché così poi ho la scusa per fumare una sigaretta. E anche il sesso? Del whisky potrei tranquillamente fare a meno, ma lo bevo perché poi mi fumo una sigaretta. E il sesso? E non mi chieda perché faccio o facessi l'amore, perché quasi certamente le risponderei che è per la sigaretta poscoitale. Cioè, lei, le sigarette più straordinarie che ci sia. Cioè, lei mi sta dicendo che la maggior parte delle volte che ha trombato, esatto, lo ha fatto quello che ho detto io. Era per la sigaretta che viene dopo, che è una delle cose più belle della vita, perché l'atto è vasodilatatorio, il fumo entra e dà piena soddisfazione, un po' vasocostrittore. C'è, cioè, c'è quell'elemento di contrasto, il vaso dilatatorio. È una cosa stupenda. E poi se la ragazza è pure bella, sì, il fatto di poter fumare e ignorarla, sì, ristabilisce gli equilibri, non è lei la padrona. Il padrone sono io che fumo la mia. Ah, ho capito, cioè la sigaretta serve in sostanza a ignorare la donna. No, a dire alla ragazza, sì, sei stata bravissima, eccetera, però io so io e tu sei tu. Beh, a mettere anche una certa distanza. Parenzo, che ne pensi tu di questa prolusione? No, dico che finalmente, che vedi, i fondatori di Forza Italia, sì, avevano un altro spessore rispetto ai politici di oggi. Beh, cioè, non, c'è dubbio, non c'è dubbio. Non grande, c'è dubbio. Grande, grande, liberale. Perché fumavamo? No, guardi, fra i fondatori di Forza Italia forse ero l'unico a fumare. No, perché Berlusconi non fuma, Mario Valducci non fuma, sì, il generale Caligaris non fuma, dei cinque fondatori Forza Italia ero l'unico fumatore. Però scusi un attimo, qui c'è un non problema. Non c'è una relazione politica, voglio dire, fra il fumo e la... No, per carità, no, però voleva dire Parenzo che per il suo modo di parlare, per gli argomenti che usa... Parenzo è un mito, che il fatto che abbia usato delle parole cortesi nei miei confronti, di cui gli sono molto grato, me lo rende ancora più. Però scusi Martino, qui c'è un problema, perché il vostro partito, il suo partito, il PDL, se ancora lei appartiene al PDL, anche non lo so, lo sa cosa diceva Standal? Che diceva Standal? È vero in tutti i partiti, eh, e quanto più uno è intelligente, tanto meno appartiene al suo partito. A proposito di però, e questo chieda agli esponenti di altri partiti, e se non sono stupidi glielo confermerà. Scusi un attimo, però nel suo partito c'è una ministro della salute che si chiama Lorenzin, la signora Lorenzin. Beatrice Lorenzin, ma... è una mia ottima amica. E ho capito, però voleva vietare il fumo in macchina in presenza di donne incinte e di bambini, vuole vietare il fumo. Ci sono sempre gli estremisti. C'era per esempio un amico mio, Pippo Fallica, che non è più deputato, Pippo che Falli, voleva fare la patente nautica a punti. Ora, se c'è un elemento in cui dare fastidio al prossimo veramente non ha giustificazione, questo è il mare. Se lei è al largo e non si vede una barca a distanza di neanche di 10 miglia e lei vuole andare al massimo, ma perché deve esserci un poliziotto che prende la sua velocità e se va troppo veloce la multa? Ma lei è un vecchio liberista, un vecchio liberista lei, Martino. Siamo superati noi, siamo superati. La doccia col casco, perché la renderanno obbligatoria. Quante persone scivolano nella doccia, battono la testa e muoiono. Però perché scusi un attimo. Col casco non la voglio fare, invece se mi devo fare lo shampoo, se mi devo lavare i capelli, mi dice lei come me li lavo col casco? Scusi, però lei ha sostenuto una cosa forte, cioè che il fumo ha sostenuto una cosa forte, che nonostante tutti gli studi scientifici eccetera eccetera, una dose moderata di fumo non fa male. Cioè, io sostengo che è vero in assoluto, che quello che fa male è la dose. Qualsiasi sostanza, pure l'eroina, in piccole quantità non fa male. Pure, l'arsenico. Pure l'eroina. No, l'eroina non lo so, ma l'arsenico in piccole quantità è un ricostituente. Mitridate era riuscito, assumendo piccole quantità di arsenico, a mitridatizzarsi, cioè a essere immune contro l'avvelenamento da arsenico. Beh, qui siamo al top, Parenzo. Ma se avesse sbagliato, invece di prenderne piccole quantità, ne avesse preso una quantità un pochino maggiore, sarebbe morto. Senta un attimo, ma andiamo a questioni un po' più, come dire, stressanti. Che perché vuole parlare di questioni stressanti? No, ha ragione. Siamo già stressati per conto nostro. Se cominciamo a consentire al resto dell'umanità di impedirci di campare in modo gradevole, non campiamo più. No, lei ha ragione, lei ha ragione. Ma io alla mia età non posso permettere al resto del mondo di rompermi le scatole. Stiano al loro posto e mi lasciano campare. Allora, parliamo di una cosa molto semplice. La vogliamo legalizzare questa prostituzione? Che dice lei, Martino? Perché il PDL... Guardi, io personalmente ricordo, perché sono vecchio abbastanza per ricordarlo, la rabbia che mi fece l'approvazione della legge Merlin. Perché mi mancavano 2 anni per poter avere accesso legale alle famose case chiuse. Sì, certo. Ero originario della città che aveva il più alto numero di case chiuse in rapporto agli abitanti. Per cui una tragedia per lei. E quindi fu una tragedia. Ed ebbi la soddisfazione di vedere l'indomani dell'approvazione della legge la lettera di un prete mandata al giornale locale nella quale il prete lamentava i danni enormi che quella legge aveva della chiusura delle case chiuse, scusi il gioco, sia sulla solidità delle famiglie, sì, sia sul benessere mentale degli scapoli, sia con la diffusione di malattie veneree, perché non più sottoposte a controlli, chissà. Però scusi, anche in questo campo, caro Martino, Parenzo, correggimi, sono state persone del suo partito, compresa la signora Carfagna, ad approvare leggi. Questo è il punto, la contraddizione che sta qui. Leggi prima, contro al mio partito appartengo a corrente alternata, non a corrente continua. Ma ho capito, però. Per esempio la Bossi Fini, la Bossi Giovanardi, la Fini Giovanardi. Sì, sì. Sono tutte leggi liberticide, ho dovuto sopportarle. Il Porcellum di cui tanto si parla, l'ho persino votato, e che Dio mi perdoni, per disciplina di partito. Anche la Severino? Errore enorme, non avrei mai dovuto votare una legge che è manifestamente insensata. Ma anche la Severino ha votato lei, dato che si parla di... Guardi, la signora Severino, che ho avuto il piacere di conoscere quando era Ministro di Giustizia, è una persona... squisita, però? Nei cui confronti ho la più alta considerazione. Vabbè, detto questo, devo dire che quando le dissi che per ragioni di principio non avrei potuto votarla, lei mi disse perché la nostra non è una repubblica presidenziale, è una repubblica parlamentare. Io non ho mai votato per il governo Dini e non ho mai votato per il governo del mio amico Mario Monti. Però che c'entra? Le espressioni non della maggioranza. Scusi, del Parlamento che ha voluto. Ma le pare normale, questo ho capito, professor Martino, le pare normale che adesso molti esponenti del PDL dicono che la legge è incostituzionale, che la legge non si può... No, la verità è che in nessun paese al mondo si applica a fatti del 2003 una legge che è stata approvata nel 2003. Vabbè, però questo... Adesso soltanto un analfabeta del diritto può sostenere che possa essere fatto. L'articolo 11 delle preleggi, io sono laureato in Ma anche lei si attacca la mia laurea è molto più vecchia di suo padre. Anche lei si attacca a sta storia della retroattività, su, ma questa è una... La retroattività è del principio della non retroattività. Ma sì, ma è chiaro che una volta... Legge è un principio sacrosanto che viene dritto dal diritto romano. Però Martino... Ora lei non può con facilità buttare a mare un principio di civiltà giuridica solo perché... al momento non gode di grande popolarità, diciamo. No, ma il punto se è un altro. Oggi fa un'azione che in base alla legislazione vigente è lecita, possono poi considerarla un reato con una legge approvata nel 2004? Ma no, ma in realtà è un'altra, è che è evidente che una legge approvata si ripercuote su chi viene condannato, ed è normale che venga condannato per cose accadute nel passato, non è che uno può essere condannato per cose che accadono nel futuro. Ma la legge riguarda i fatti successivi alla sua... Vabbè, ma al di là di questo... Non ma... quelli precedenti. No, ma ho capito, Martino... Non ha senso. Guardi, io non so se la sodomia sia un reato, probabilmente non lo è. Però? Ma se ammettendo che passi una legge che lo rende un reato, tutti coloro che hanno commesso sodomia in passato diventano criminali, ma che ragionamento? Ma no, ma non è così, non si può applicare questo ragionamento. Senta, ma lei che voglio capire, è uno di quelli che dice se Berlusconi decade bisogna uscire dal governo? Guardi, io ho sempre sostenuto che un governo di larghe intese come principio è sbagliato, perché un governo di larghe intese lascia poco spazio a una vera opposizione. Siccome però... a rendere democratico un paese non è l'esistenza del governo, perché anche nelle dittature c'è il governo, ma è l'esistenza dell'opposizione, io sono in genere contrario ai governi di larghe intese. Detto questo, però, devo anche aggiungere che data l'eccezionalità della situazione specie economica, perché non abbiamo visto ancora niente, come facciano a dire che avremo una ripresa nel 2014? Dunque? Io non sono in grado di capirlo. Noi continueremo ad andare... Dunque, lunga vita a Letta. Una recessione che è inarrestabile. Lunga vita a Letta, lei dice. E quindi per me va bene che sopravvive il governo delle larghe intese, però il governo delle larghe intese deve approfittare del fatto di avere una larga maggioranza per fare le cose importanti del paese, non per gestire l'esistente. Il governo Letta sta gestendo l'esistente. E questo è vero, un attimo solo, Martino. La vicenda Berlusconi non c'entra. No, invece in questo momento c'entra. Il governo Letta merita il consenso di due partiti che hanno ispirazione diversa e di le ha fatte alcune delle grandi riforme che potrebbero davvero riportare la spesa pubblica sotto controllo? Non ne ha fatto neanche un accenno. Un attimo, pubblicità. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Il consigli di Giuliano Ferrara a Berlusconi. Che Gaetano Salvemini, che non è Schifani, è Gaetano Salvemini, con tutto il rispetto naturalmente per Schifani, ma voglio dire non era un uomo di parte, diceva: se ti accusano di avere stuprato la Madonnina che sta sull'ultima guglia del Duomo di Milano, tu intanto vai all'estero, poi si vede. Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. In omaggio lo stregone Rasgagarin. Buon anno versus Mussolini. Avete più in vale di voi di tutta Italia. Epico scontro. Siete più in vale di voi che tutto il resto del paese. Tutti piangete, non avete il lavoro, alzate le mani, che lavorate. Non è vero, perché sei così? Tu sei invidiosetto, amore, perché hai visto Positano. Piglia e porta a casa. Sui Balcani che tengono. In questo casino in cui adesso si riunisce la giunta che deciderà le sorti di Berlusconi, anche se non si deciderà assolutamente nulla, David Parenzo è in collegamento da Roma con rumori di sottofondo insopportabili e il professor Antonio Martino. Rumori. Saluto le maestranze di media che noi facciamo. Graziano, grazie di tutto. E ti saluto anche Giuseppe che è in diretta alla radio in questo momento. Grazie, ciao caro. Ciao. E il professor Antonio. Mandate una macchina per cortesia. Pronto, scusami. E il professor Antonio Martino in collegamento da Roma. Allora, professor Martino. Antonio Martino, voglio dire questo. No, Martino, voglio dire questo assolutamente. Dimmi. Oltre a abbracciarlo forte, voglio dire questo. Martino, in tutta sincerità, dal presupposto che il signor Berlusconi non è né Sandro Pertini già incarcerato né Nelson Mandela perché non è negro ma è bianco, l'idea di avere un leader che parla dal carcere o comunque dai domiciliari mi pare una cosa allucinante, visto che non è né Pertini né Mandela. Il mio amico Silvio Berlusconi non è nemmeno Marilyn Monroe, se vogliamo parlare non è Nelson Mandela ma neanche Marilyn Monroe, che aveva dei pregi indiscutibili. Sì, è una cosa allucinante, In che senso? Per il modo in cui è stata costruita e realizzata, che ha veramente del terrificante. Se io non fossi in età in cui non posso consentire al resto del mondo di darmi fastidio e quindi non me ne importa niente, sarei molto preoccupato, ma siccome gli anni da vivere non sono infiniti e mi preoccupo solo del mio futuro prossimo venturo, spero solo che non capiti anche a me. Però scusi, una vicenda come questa. Però scusi un attimo Martino, adesso non era quello che voleva intendere Parenzo, che succede se Berlusconi decade da parlamentare? Guardi, Berlusconi in questo momento storico è certamente l'unico leader del centrodestra, e questo lo sappiamo, sia in Parlamento sia ai servizi sociali, sia nella sua casetta due camere e cucina di Arcore, sia in galera, lui resta il leader del centrodestra. Ora noi in Italia oggi dobbiamo renderci di una cosa, conto di una cosa, che i tre quarti degli italiani o sono talmente disaffezionati nei confronti della politica da non votare, però scusi, oppure sono prigionieri di questo mito dell'antipolitica per cui votano per il movimento. Però scusi un attimo, però i tre quarti d'Italia non è rappresentata da alcuna forza politica democratica. Ho capito, ma se uno froda il fisco o perché non vota o perché vota per Grillo. Quindi il PD, il PDL, il Proplay, cioè, in tutto rappresentiamo un quarto della popolazione degli italiani. Ho capito, però scusi un attimo. Ora, se noi partiamo da questo punto, chiediamoci se fra i disaffezionati, di quelli che non votano più, ci sia una maggioranza di persone di sinistra o di centrodestra. Io sono convinto che la maggioranza dei non votanti sia di centrodestra e ho anche la possibilità di dare un'indicazione quantitativa, perché a febbraio di quest'anno la Sicilia orientale votò il PDL però, in modo massiccio. Scusi, Martino, che non impedì al PDL di perdere vergognosamente le amministrative regionali, prima le amministrative. Però scusi Martino, lasci perdere. No, abbia pazienza solo un secondo. Se quindi la maggioranza degli italiani non è di sinistra, è quello che sto dicendo, il centrodestra ha bisogno di avere qualcuno che lo rappresenta. Ho capito, ma se uno ha frodato il fisco e a un certo punto c'è una sentenza definitiva, fisco, o lei no. Secondo alcuna una sentenza definitiva a tamburo battente che Berlusconi avrebbe frodato il fisco per quegli eventi alla persona che aveva firmato il bilancio. Va bene, d'accordo, con Falonieri. Lo hanno prosciolto due volte. Come li allora che caspita stiamo parlando? Ma allora, stiamo parlando di magistratura o di un'associazione a delinquere di stampo giudiziario? Oh, secondo lei è la magistratura? Io sto dicendo è che un'associazione a delinquere, non hanno diritto allo stipendio che ricevono. Perché? Perché non compiono il loro dovere, sì, e invece utilizzano il loro potere, sì, per fare politica. Sì. Dunque sono un'associazione a delinquere. Da loro non mi farei giudicare neanche per una multa e divieto di sosta, perché sono talmente faziosi, sì, che sarebbero in grado di darmi l'ergastolo per avere posteggiato fuori dalle righe. Ah. Cioè vogliono praticamente condannare a morte. Hanno voluto liberarsi il mio avversario politico, nei cui confronti avevano sempre manifestato, sì, antipatia e animosità, sì, e ci sono riusciti. Ma lei invece si affiderebbe... E noi che cosa dobbiamo fare? Dire che hanno ragione, quello è uno frode fiscale, è giusto che venga mandato... Bisogna fare confine. La guerra, bisogna andiamo fare... al confine. Una volta nel fascismo, sì, esisteva una maggiore trasparenza. Ma come una maggiore trasparenza? Su, ma Martino. Sì, li mandavano al confine, che erano le bellissime isole. Come bellissime isole? Le isole comodissime, dove stavano, avevano tutti i confort, e lì venivano mandati gli avversari politici. Ma vediamo Berlusconi, che so io, a Pianosa, a Capraia, a Gorgona, in una qualsiasi isola dell'arcipelago toscano, e lo mandiamo al confine, così loro saranno contenti. E questo il lavoro di un magistrato. Scusi un attimo, ma lei si affiderebbe invece agli avvocati di Berlusconi? Non sono tanto bravi questi avvocati, mi sembra. Guardi, o no? Io considero, per esempio... il professor Coppi, il miglior penalista. Beh, Coppi, ma Ghedini e Longo si affiderebbe? Considero Ghedini, un ottimo, che fra l'altro la cui sorella ho avuto il piacere di conoscere, perché montavamo a cavallo. Beh, lei si affiderebbe agli avvocati di Berlusconi? Si affiderebbe? Un avvocato serissimo. Io conosco fior di avvocati e fior di magistrati, sì, che con questa vicenda non vorrebbero avere niente a che fare, perché si rendono conto dell'assurdità dell'intera storia. Intanto, Parenzo, sei morto? Io capisco. Cioè, capisco, ma in base alla quale l'accusa è stata montata, Martino, non è neanche definitivo, perché è stato contestato da Mediaset. Scusa. E la giunta tributaria provinciale, la giunta. E come fate a sostenere che c'è stata addirittura frode fiscale? Parenzo, cioè, secondo ma rimane il punto di cioè, secondo lei non è scusi, meno. Non è una cosa, ma non è una cosa così grave la frode fiscale, secondo lei? Ma secondo me tutto è grave, dipende dall'occhio di chi guarda. Io considero come comportamenti perfettamente legittimi, sì, comportamenti che lei considererà probabilmente delittuosi. Per esempio? Per esempio. Evadere? No, per esempio la prostituzione di cui parlava prima, sì, io la considero una transazione capitalistica fra due adulti consenzienti. Ma sono d'accordo con lei su questo. E allora vorrei sapere che diavolo di diritto ha un signor poliziotto che viene a rompere gli zebedei a me mentre sto in compagnia lo di dica una la signora che consensualmente mi offre i suoi favori chiedendo in cambio non la vita ma soltanto un compenso pecuniario. Ma lo dica alla Carfagna però, non è che lo deve dire a me. Se vuole glielo dico la prossima volta che la vedo. Lo vede. La Carfagna una... certo. Lo dica perché ha approvato una legge in cui le pene sono state aumentate e una legge in cui è incappato anche Berlusconi. No, però guarda, alla base di tutto, oltre all'affetto No, secondo me, Martino non considera la frode fiscale una cosa grave, giusto? Ma infatti è pazzesco. Se io fossi certo che lei, data la diffusione e la popolarità della sua trasmissione, per via di quello che ora sto per dire, non mi mandasse in galera per apologia di reato, sì, io le direi che considero chi si sottrae al balzelli del fisco come un patriota. Un patriota. Perché sottrae risorse scarse al pubblico spreco per destinarle a scopi produttivi. Io credo di sapere spendere i miei soldi meglio di chiunque altro. Non ho nessuna intenzione di consegnare il frutto del mio lavoro alla politica perché possa dilapidarlo in spese futili o addirittura controproducenti. Quindi non mi venga, io sono non un liberale, sono un libertario, sono un anarcocapitalista. Dunque il reato di frode fiscale secondo lei non esiste, non dovrebbe esistere? Ma no, la frode fiscale in questo caso non esiste proprio come fattispecie, perché non c'è neanche il reato, neanche un illecito amministrativo. Però secondo lei non quello è grave, non è grave. È la sovrafatturazione. Sì, allora, vabbè, la, sovra, certo. La sovrafatturazione, come lei sa, sì, è una delle forme di elusione più praticate dalle società. Sì. Le società. Ma insomma non è grave per lei, non è grave per lei, Martino, per concludere. No, per me non è affatto grave. Per me è grave che quattro mascalzoni, per liberarsi di un loro avversario politico, abbiano messo in scena spese mie, sì, contribuente italiano, sì, tutta questa montatura del piffero. Un'altra cosa, Martino, ma che ne pensa lei invece, poi la lascio, del ministro Chienghe? La quale... Ho avuto il piacere di stringere la mano al ministro Chienghe in occasione del 2 giugno dell'Apex della Repubblica e delle Forze Armate. Per quel poco che ho avuto modo di conoscerla, mi sembra una signora a modo e per bene. Ma non parla un po' troppo? E no? Ha un sorriso gentile da signora veramente. Sempre. Non parla un po' troppo? Adesso parla di sostituire la parola ma papà e mamma, genitore con genitore 1. Su questo punto lei parla con non con un liberale, né con ma un di più, ma con un ultra reazionario. Secondo me esistono i maschi e esistono le femmine, sono sempre esistiti i maschi e le femmine, non esiste il mammo e non esiste la babba, no, la babba in siciliano esiste perché vuol dire babbo, vuol dire stupido in siciliano, vabbè, però... la babba è una persona, una donna stupida. Vabbè, mica penserà che i gay... I generi sono diversi, sì, e non credo che sia un reato diverso dal normale omicidio, il femminicidio, anche perché... Questo è vero. 7 su 3 morti ammazzati sono maschi. Sì. Quindi non vedo perché dovremmo fare tutto questo cancan sul femminismo. Questo è giusto, questo è giusto. Senta, invece un'ultima una cosa, lei contro i NOTAV che vogliono distruggere i cantieri, non userebbe anche le armi? Guardi, i NOTAV vogliono fare prevalere un interesse locale ristretto sull'interesse generale del paese. Come si risponde alla violenza dei NOTAV? No, io i NOTAV non gli sparerei ad alzo zero come farebbero altri. Quello che farei è però gli impedirei di danneggiare la proprietà altrui. Appunto, dico. Il fatto che abbiano fatto quello che hanno fatto ieri sera, che hanno bruciato questa è una mascalzonata ed è un crimine. Quello è un crimine, non le invenzioni di frode fiscale. Cioè, e va punito. Sono peggio i NOTAV di Berlusconi, dice lei. No, io dico che sono peggio i magistrati dei NOTAV. Perché addirittura i magistrati che hanno incriminato Berlusconi, se facessero il loro dovere invece di rifugiarsi dietro un'improbabile obbligatorietà dell'azione penale, dovrebbero occuparsi dei reati, dei crimini, non perseguire o perseguitare una persona solo perché gli sta antipatica dal punto di vista politico. Capito, Parenzo? Beh, qui l'ha detta un po' grossa, professore. Ma ha detto quello che pensa, professor Martino. Lo sa cosa si dice in Toscana? Come si dice? Fatta grossa la copra. Un abbraccio, a presto. A presto. Arrivederci, non faccia troppo sesso, professore. Per piacere, la smetta che ho una certa età, lasciamo perdere. Pubblicità. Siete due bastarde, nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare. La Zanzara. Siamo qui con Mariella, provincia di Trieste. Parenzo, dove sei? Dove ti trovi? Mi trovo in macchina lungo Tevere in Augusta con una persona che si chiama Domitilla Savignoni, che conduce generalmente l'edizione... No, non dire parola. Perché devi dire parola? Cioè, che conduce l'edizione del TG5 e delle 13 diretto da Clemente Mimmon. Vai all'obelisco a sinistra. Andiamo avanti pure col menù della serata. Mariella, provincia di Trieste, su. È arrabbiato, non ho visto che è arrabbiato. Ma era arrabbiato, non sei concentrato. Prima stavi là, non sei concentrato. Mariella, provincia di Trieste, ma su. Ma lo pagate voi per stare in trasmissione? Lo paghiamo, sì, lo paghiamo, sì. Mariella, provincia di Trieste, su. Eccomi qua. Vada. Mi sente? Sì, sì, la sento. Ho detto Trieste, la città bellissima per antonomasia. Sì, lo proprio. So, lo so, sarò a Trieste il 21. Lei c'è stato, mi ricordo che mi sembra che ci una volta è stato qui assieme a Parenzo, mi sbaglio? Sì, sì, più di una volta, ecco. Più di una volta. Beh, volevo dire questo, che io condivido in pieno la protesta del Movimento 5 Stelle fatta oggi in Parlamento, perché effettivamente... E lei, se per cortesia lo dice, quanti sono gli indagati condannati in Parlamento? Mi sembra un centinaio, giusto? Ma non mi sembra proprio, guardi. Cioè, non... Ma io ho queste informazioni. Ma l'informazione è sbagliatissima, non ci sono assolutamente... Comunque, senta, ce ne sono parecchi in ogni caso, no? Però mi domando perché noi cittadini continuiamo a pagare queste persone, perché li manteniamo con i soldi nostri. E mi sembra che il Movimento 5 Stelle abbia detto la verità, insomma. Avremo bisogno di gente pulita là dentro e non più vedere sempre le solite facce che mandano il paese proprio allo spascio. Vabbè, tutto qua. Ha finito? Sì. La saluto, un abbraccio. No, per carità, non ho capito niente, però va bene, abbiamo bisogno di facce nuove, di persone che non rubino, eccetera, eccetera. La protesta dei 5 Stelle sul tetto della Camera, la revisione della Costituzione, eccetera, eccetera. A parte che lì, vabbè, è troppo complicato. Elber da Modena, Elber da Modena. Salve Crociani. Vada. Sono incazzato come una vipera. Perché? Che è successo? Ma col cazzo di Berlusconi, ma ormai non se ne può più, non se ne può, basta! Cioè? E che cavolo! Cioè? Se deve andare in galera che ci vada, e basta, è finita! Che cosa vuol dire con sto PD che deve ancora salvarlo ancora? E che cavolo! Ormai, cioè, voglio dire, questa politica deve cambiare! Ma guardi che... Deve cambiare, basta! E che tutti i giorni con sto Berlusconi, è perché ha fatto quello con la Ruby, è perché ha fatto quell'altro con quest'altra, e allora dov'è il problema? Ma basta, tutti i giornali, apri i giornali tutti i giorni, c'è Silvio Berlusconi, e che cavolo! Dunque? Allora, quindi non ne possiamo più, siamo stanchi di lui, siamo stanchi di questa politica, dove ci vogliono portare in piazza? Non mi problema, In piazza a fare cosa? In piazza a fare che? Ma scusi, non ho capito, lei con chi ce l'ha? Col Partito Democratico? Col PD? Io ce l'ho innanzitutto col Partito Democratico, che è quello che dice che lui è democratico, che è quello che praticamente deve salvare, deve, con questo governo Letta che faceva, che doveva però, fare. Scusi, Elber, sia calmo, non mi pare che il Partito Democratico voglia salvare Berlusconi, anzi mi sembra che tutti quanti sono orientati per votare sulla decadenza di Berlusconi da parlamentare. Sulla cadenza di Berlusconi, voglio poi vedere questa sera quando escono cosa possono dire, che lo mandano ancora avanti, che così vada non so dove a ancora un altro processo e così via. Ci vuol giocare con me? Non lo so, vedremo, ci vuole scommettere. Ci vuol giocare con me? E allora, poi c'era Monti, quello che doveva essere quello perfetto, che dovevamo fare tutti bravi, perché noi dovevamo risanare l'Italia. Ho visto cosa ha fatto, no? Ho visto nessun taglio in politica, da nessuna parte. Siamo stanchi, le aziende chiudono. A Formigine un'azienda ha mandato gli operai in ferie, quando sono tornati non c'era più l'azienda. Io voglio risentire Librandi contro Mussolini, fatemi risentire Librandi contro Mussolini. Non avete fatto niente, non avete fatto le infrastrutture, Giuda. Niente. Capisce? Giuda. D'accordo. Allora, dimmi. Le posizioni Giuda. Sono chiare. Ascolta. Sì. Giuda. Sì. Ascolta. Si sente, sì. Ascolta, Giuda. Guarda che quella Mussolini lì gli fa ritirare Giuda, perché sennò gli insulti li posso dire anch'io a lei. Chi non ho capito? Va contro la TA sull'Ibis? Ricoglionita. Ma dai, Librandi. Vabbè, mi dici Giuda, non gli dici niente. Ma vabbè, Giuda non è vero. Ma se no, allora diciamo, dai, su. Oggi ho sentito cretino, ignorante, rincoglionita, Giuda. Pezzo di merda, eccetera, eccetera. E poi Librandi, visto anche così, no? Un signore, andate a vederlo anche su Google, che è una persona di una eleganza, no? Non diresti mai che uno che dice queste parole, addirittura una signora rincoglionita, no? Non diresti mai, anche tu l'hai incontrato, diresti mai che uno di Scelta Civica, cioè non è un linguaggio montiano, questo volevo dire. No, Sciolta Civica, ma ormai se ne fotte di Monti. Ma c'è ancora sto signor Monti? Boh. Antonio da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io ho visto la trasmissione di Travaglio ieri e onestamente mi sono anche molto divertito. Devo dire che non riesco a capire come un avvocato possa, come tutti i simpatizzanti del PDL, ripetere, e quindi lo fa da avvocato, questa ragione a sostegno di Berlusconi, per cui siccome Berlusconi ha evaso, se non ricordo i valori assoluti, ha evaso 3 euro, ha evaso soltanto 3 euro, però ne poteva, ne ha pagato altri 7 euro di tasse, questo dovrebbe essere premiante o comunque dovrebbe deporre alla infatti critica. Quello non è un grandissimo argomento, Lo so, però lo fa un avvocato, cioè finché lo fa il popolo o una persona che non ha gli strumenti, questa è una motivazione che non ha nessun sostegno né sul piano del buonsenso né su quello giuridico. Che lo faccia un avvocato secondo me è gravissimo, e quindi secondo me Travaglio ha fatto bene a prendere pesci in faccia un avvocato e un esponente peraltro della Commissione Giustizia. Ah, la Casellati, quindi, dice lei. Okay, sì, esatto, quindi voglio dire, però voglio dire, io di questo mi stupisco, però devo dire che dopo aver sentito poco fa Martino, che ha detto che sono dei patrioti coloro che fanno frode fiscale in questo paese, a questo punto abbandono le armi, seppellisco l'asce di guerra, perché evidentemente non si riesce più a discutere su cose normali, concrete e di buon senso, perché se anche una persona che non è fra quelli più fanatici della PDL fa un'affermazione di questo genere, che secondo me è gravissima, vuol dire che possiamo chiuderla. Sì, però non è la prima volta, non è la prima volta. Luciano da Perugia, buonasera. Non è la prima volta, dice che quando uno sottrae qualcosa al fisco è meglio spendere i soldi per i cazzi propri piuttosto che darli allo Stato che li spreca, insomma, questo è il suo ragionamento. Poi non è che fa l'elogio dell'evasione fiscale, però insomma ci siamo quasi. Luciano Perugia, buonasera. Oh, volevo dirti che sei un pezzo di merda. Oh, qui ci siamo, battaglia, che vuoi, Luciano, dimmi. Visto che te non vedi l'ora di essere risultato, ti dico. No, io non è che non vedo l'ora, è che non mi piace il fioretto. Perché così. Te insulti, sì, facendo la tua trasmissione del cazzo, insulti il buon lavoro di tutti i tuoi colleghi che lavorano giornalmente. Che stai dicendo? Scusa, non ho capito perché si sente male. Sì, te non capisci mai un cazzo. Sì, non ti preoccupare, non capisco nulla. Vai avanti. Radio 24 ospita delle trasmissioni che sono fantastiche, fatte quotidianamente da professionisti. Secondo te, ovviamente. Secondo te. Ma secondo gli sempre secondo Radio 24. Sempre. Poi a un certo orario arriva la merda. Sì. Arriva la merda. La zanzara. Allora, qual è il problema? La zanzara. Sì. Tu rovini sicuro il livello di ascolto di una radio che è sotto certi aspetti fantastica. Sì, sicuro, infatti è tutto rovinato. Barisoni, infatti Luciano. Tu non hai i coglioni per fare il giornalista. Tu l'unica cosa che fai è ascoltare quelle cazzate che ti dicono i tuoi ospiti. Sì. Mai ti viene in mente di fare delle domande all'ultimo signore. Lasciala ascoltami. Andare, vai. Ascoltami, l'ultimo signore, ci sei? Sì, ci sono, come no? Signore che hai ospitato Mantovani, che si è permesso di dire che non si devono pagare le tasse e fare frode. Non era Mantovani, professore, maestro, Luciano, fenomeno, non era Mantovani, fenomeno, non sai manco chi è, vergognati, non sai nemmeno chi è, vergognati. Mi sono confuso una volta, stai tranquillo, vergognati, pezzo di merda lo dice a qualcun altro. Questo si è permesso di dire queste cose. Vorrei sapere questo signore che ruolo ha avuto nei governi nei governi precedenti. Vabbè, ma tu non sai nemmeno chi è. Altri, ma non sai nemmeno chi è. Ma chi è quello che ha parlato prima? Chi è che ha parlato prima? Mantovani. Chi ha parlato prima? No, sbagliato. Sbagliato, acqua. Allora, acqua, hai sbagliato. Ospiti, personaggi. Ma dimmi chi è, non sai nemmeno chi è. Non sai nemmeno di chi è. Gli dai la voce, sta zitto, pezzo di merda. Tu sei una macchia di merda in un vestito da sposa. Tu questo sei. Con quella trasmissione tu non fai altro che danneggiare Radio 24. Infatti, gli ascoltatori dovrebbero boicottare Radio 24. Ma guarda che mi stai facendo un favore, amico mio, non hai capito ancora, mi stai facendo un favore. È meglio che smetti, perché mi stai facendo un favore. È meglio che smetti, mi stai facendo. Infatti si vede. Ok. Difatti sono entrato in macchina e Parenzo, rispondi tu a questo fenomeno che non sa nemmeno chi è intervenuto prima, rispondi tu. Sì, però mettiti in un posto dove prendere il telefono. Pronto? Sì, va pronto un corno, dai, forza! Ma cos'è questa qui? La nuova rubrica Viene Avanti Cretino, nuova rubrica inaugurata stasera? Ah, meno male, sì, Viene Avanti Cretino, sì, Luciano, è intervenuto Luciano, nuova rubrica di stasera. È la nuova rubrica, usiamo la musica di Grabazzo, Viene Avanti Cretino, nuova rubrica, nuovissima, battezzata oggi da Luciano, bellissimo, ottimo. Quanti soldi ti fai dare? Cruciani, pochi. Che sei un giornalista venduto. Sì, vai, sei un giornalista venduto. Prosegui, tutta non roba per me, fare, tutta roba buona, tutta roba, tutta roba buona, dai, tutta roba buona, dai, continua, dai, Luciano, continua, continua. Ospiti di merda, sì. Ai tuoi ospiti di merda. Sì, certo. Non bravo. Hai fatto, tu hai fatto la terza media, evidentemente. No, poi ma nemmeno, nemmeno quella, nemmeno quella. Probabilmente questo. Neanche hai quella. Questo. Il problema è che se tu fossi su una radio di merda, sì, questo potrebbe essere accettato. Lavori per una radio seria, sì, e la infanghi ogni volta che ti presenti al lavoro. Bravo, io metterò questa cosa, metterò questa cosa in loop. Gli ascoltatori dovrebbero boicottare la tua trasmissione di merda. Mi stai facendo un favore. Mi stai facendo un favore. A mandarti a fanculo. Se non fa, se non ti mandi a fanculo, chiamo Radio 24. Ma questo è malato, questo è stupendo. No, lei è un povero malato, ma è stupendo. Di merda, tu sei un giornalista di merda. Ma come mai c'è questa parola attaccata in bocca, Luciano? Come mai? Perché tu stimoli, tu stimoli. Ah, beh, quello può essere. Stimolo, non c'è dubbio. Andare al cesso. Oh, quando sento te, questo è buono. Venire in voglia di cagare. Questo è buonissimo. Perché guardi, tu hai una capacità di fare, sì, giornalismo, sì, pari a zero. Bene, pari, bravo, a zero. Luciano, ti posso chiedere, okay, per aumentare gli ascolti di restare ancora in onda un po'? Abbiamo la borsa? Sì, buonanotte. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. La Zanzara. Caro aumentatore degli ascolti della Zanzara, Luciano da Perugia, buonasera. Sì, ci sono sempre, ma posso dirti una cosa? Sì, dimmi. Con più tranquillità. Bah, la tranquillità. Ma ti ho visto, no, ma ti ho visto, non farmi incazzare, sta calmo. Ti ho visto in televisione che fai una trasmissione di calcio. No, sei rimasto cose indietro, fenomeno. Sì, facevi, sei facevi, tu non sai nulla, non sai due niente cose, come al solito, non cose, sai uno niente. Sai poco di calcio. Sì, ma vabbè, l'altra cosa più sorprendente. Sì. Oh, ma quanto cazzo sei brutto! Ma sei proprio brutto. Bruttissimo, infatti. Oh, minchia, ma sei un cesso proprio. Cazzo, Parenzo, scusami, volevo chiedere una gentilezza. Il servizio sanitario nazionale è già stato allertato. Zero, zero, tu non sei fotogenico. Sì, sì, continua sì a parlare alla radio. Vai, vai. Vai. Ma assolutamente. Volevo chiederle una cosa, signor radioascoltatore. Assolutamente. Luciano, stai tranquillo. Un attimo, arrivano. Adesso arrivano, non si preoccupi. Luciano, mi perdoni, sì. Luciano? Vai, Luciano? Spara la tua. Ascolta, Luciano, siccome hai battezzato la rubrica di oggi, la nuova rubrica della Zanzara, potresti dire, noi stiamo zitti, ci registri il presigla per cortesia. Benvenuti a Viene Avanti Cretino, eccomi qua, Luciano. Prego, scusa, registriamo. Va, va. Vai, vieni avanti. Vieni avanti Cretino. A ridere, altre volte si adeguano lo standard di Cruciani, Bene, questo vieni avanti, dai, dillo, fai lo spot, vieni avanti volte, Cretino. Fai lo spot. Si adeguano lo standard di Cruciani. Fai lo spot. Siete proprio una coppia. Comunque, voi fate, infamate la radio 24. Senti, voi senti. Senti che arriva, senti che arriva. Hai capito o no? Aspetta che arriva. Il padre sei brutto come un cesso, sei brutto come un cesso e come giornalista non ci capisci un cazzo. Ti saluto e mo vado a casa. Vai. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino, non sei solo tu. Quando uno è scemo pure nel pelo. Il padre eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale. Canta insieme a noi, Luciano! Ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino. Risponde l'operaio al suo padrone. Oh, oh, viene avanti frescone. Gino da Roma, buonasera. Buonasera, salve Cruciani. Il 50% delle splendide parole che ha dedicato quello che ha telefonato prima le penso anch'io di lei. Comunque, mai siamo... io 50% adesso io. Sì, detto per carità, infatti sta, là, dico, sta qui al telefono, sta qui al telefono ad aspettare a, a, beh, sì, a me io, a essere no, mi sono divertito a sentire quello di prima, mica perché no, beh, è sempre un caso, è sempre un caso, Gino, no, no, è sempre io, un caso. Guarda, io l'ascolto da un sacco di tempo e devo dire, e devo dire che a volte fa delle interviste splendide, a volte lei è un po' erotomane perché c'ha qualche problema sicuramente dal punto di vista sessuale, secondo moltissimi me. Problemi, sì, guarda. E a proposito di quello, trabocco di problemi sessuali. Io volevo parlare di Martino prima, no? Sì, Martino prima ha detto che dopo che ha fatto una, chiaramente lei ha fatto la domanda, dopo che si è fatto la sua bella trombata, si fuma la sigaretta, perché si allargano i vasi dilatatori e quindi questo fumo che gli va al cervello, ma si fuma qualche cosa di particolare? Perché dopo tutte le stronzate che no, ha detto, lui dopo... ha detto un'altra cosa, Gino, in realtà ha detto il sesso è una cosa che è vasodilatatore, la sigaretta restringe, dunque c'è questo contrasto. Vedo che lei, ma lei ascolta oppure no? Perché non ha capito nulla. No, guardi, sto in macchina qui, poi io sto a Roma, quindi il traffico era quello che era, quindi sentivo un po' male in quel momento e ho sentito questa cosa qui, ma la cosa che mi ha colpito è quella di tutte le stronzate che ha detto dopo, e cioè quindi che chi froda fa bene perché si mette vabbè, i soldi, quella in tasca. È un'altra aspetti, cosa, no, ma aspetti, ma lui 20 anni non ha fatto il politico, quindi tutti i soldi che noi abbiamo dato a lui e al suo partito e anche agli altri praticamente li abbiamo buttati, quindi da una parte dice che facciamo bene, dall'altra parte però li vuole, cioè io dico, non ho capito se queste persone si rendono conto di quello che dicono o come alcuni spettatori, alcuni radioascoltatori che telefonano e dicono le stronzate. Mi sembra la stessa cosa. E l'ultima cosa. Sì. Forza Roma, arrivederci. Ma questo sarebbe l'intervento geniale di Gino da Roma. Stefano sempre da Roma. Senti, allora, premetto, da Roma Tassinaro. Oh, grandissimo. Oh, e premetto, noi ci siamo sentiti il giorno prima delle elezioni del Papa e ti dissi domani sera alle 8 viene eletto. E vabbè, così fu. E così fu. Allora, senti, riguardo all'intervento di Martino, che pure quest'altro Dino ha detto qualcosa, allora, non sarà giusto frodare lo Stato, però come ha detto lui, manca giusto che i soldi che pago delle tasse si devono mangiare loro. Allora bisognerebbe trovare una via di mezzo. Io ai turisti, sai che gli dico? Che gli dici? Quando sui giornali leggete che gli italiani non pagano le tasse, sappiate che non le pagano o ne pagano poche, perché gli gira i coglioni di pagare le tasse per dare la pensione tipo Lamberto Adini, Giuliano Amato, quando un poveraccio cristiano qualunque ne pia 6, 700, 500. Però se uno scusi un attimo, se uno dovesse ragionare in questo Stefano, se uno dovesse ragionare in questo modo, caro Stefano, allora ci sarebbe la scusa per non pagare mai le tasse. Come no? No, infatti no, dico, non è che bisogna non pagarle, dico che però a uno gli girano le palle, perché se i soldi sono spesi bene come in Europa. Beh, dunque aveva ragione Martino? No, non del tutto, però il concetto è il fatto che i soldi li spendono male, tu uno i soldi io li so spendere bene per cavoli mia, capito? E te voglio dire. Cioè, e loro li spendono male, li spendono soprattutto per loro stessi, cioè da pensione al figlio de Bossi o stipendio, da la pensione, cioè a me invece girano i coglioni, io lavoro 10 ore al giorno dentro al traffico di Roma e quando paghi le tasse so che i soldi mia vanno a finire lì, a me mi girano i coglioni, sinceramente. E figurati a me se non mi girano i coglioni. Cioè, perché sono spesi male, cioè nel senso che mi socero 47 anni di Tassinaro, sai quanto prende pensione? Quanto? Prendeva manco 600 euro, siccome lavora 3 ore giorno sempre sul tassi, hanno abbassato a 4,80. Oh, dopo 47 anni di lavoro da tassinaro, 600 euro, non so si rende un'idea, la casalinga, mia madre, chiunque sia, quante ne piano? 500-600 euro, e questi donano via 20.000 euro, 10.000 euro. E no, però le pensioni d'oro non si possono toccare. Ma è venuto a far sindaco a Roma e non gli bastano 5.000 euro, ma che c'è venuto a fare? Ma che Alemanno non gli ha detto quanto era lo stipendio da sindaco? Però Stefano, su quello un po' ha ragione lui, non è che un sindaco lo puoi pagare 3.500-4.000 euro, perché altrimenti un assessore a Roma 3.200 euro netti, ma che vuol dire? Nessuno lo fa l'assessore, cioè si devono scegliere personaggi che non hanno stipendi, cioè questa cosa, in questa cosa Marino non aveva tutti i torti, grazie. Ulisse Di Giacomo, sai chi è Parenzo? Sai chi è Ulisse Di Giacomo? Ma sta piovendo a dirotto, ma che mi frega a me, piove, mannaggia, frega grama. Ma che me ne frega a me se piove a Roma, si può piove, lavorare. Mannaggia Frank Agrama. Ma che c'entra Frank Agrama? Frank Agrama. Sai chi è Ulisse Di Giacomo? Sai chi è Ulisse Di Giacomo o no? io conosco Ulisse, ma non Ulisse di Giacomo. Ulisse di Giacomo, questo nome così, no, così straordinariamente straordinariamente importante, è un ex senatore che potrebbe tornare senatore se il Senato caccia Berlusconi. Sì, From Molise, Ulisse di Giacomo, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Come sta? Bene, bene, lei? Quanto spera? Bene, bene, non c'è male, combatto. Quanto spera che Berlusconi venga cacciato dal Senato? Me lo dica, però mi dica la verità, non faccia adesso il diplomatico qui, signor Di Giacomo, la prego. No, non è una questione di diplomazia. Io già ho detto più volte che non ero d'accordo sull'opzione che Berlusconi aveva fatto dopo le elezioni. E vabbè, lo sa, perché probabilmente lei contava poco rispetto ad altri, cioè Berlusconi ha deciso di fare il senatore in Molise per far diventare senatore altre persone. Lei non contava nulla, questo è il punto. Sì, questa è sicuramente la spiegazione più logica, però in una ottica di politica nazionale e territoriale, da Berlusconi, che è una persona intelligente, qualcuno si sarebbe aspettato una scelta diversa. E perché, mi scusi? Perché privare una regione di qualsiasi rappresentanza. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? No, la gente del Molise, non è vero che non se ne che frega. Che la gente del Molise sta aspettando che lei diventi senatore. Questo è il punto. La gente del Molise ha votato in un certo modo pensando che il proprio rappresentante sarebbe stato in Parlamento per difendere gli interessi di questa regione. Ma non cambierà nulla nella storia del Molise se c'è un senatore oppure no? Parenzo, diglielo tu. Voglio dire, non è la gente del Molise, è lei che giustamente sta contando i giorni che quello finisce al gabbio, ma è un interesse legittimo perché così lei... Mi dica la verità. Lei spera che non è così. Però scusi, Di Giacomo, lei mi dica, però me la deve dire bene. Lei spera che Berlusconi decada dal Senato. Ma non me lo dica, spera ardentemente, sì o no? No, più che sperare, io credo che questo sia nell'ordine delle cose, da come si sono messe adesso. Cioè, è giusta la decadenza? Ma la legge Severino fu pensata, scritta e votata in un momento particolare in cui l'opinione pubblica era anche abbastanza incazzata, come lei si ricorda bene. Quando una legge viene poi votata, è legge, sta lì, non è che si può far finta di nulla. Dunque è giusta la decadenza? No, e quindi credo che quella legge impone determinate decisioni, ecco, tutto qui. Quindi... No, ma ho capito, però sia chiaro, Di Giacomo, non si nasconda dietro le parole. Allora, sia sincero fino in fondo, lei pensa che è giusto che Berlusconi decada da senatore? Io penso che sia giusto che quella legge venga applicata e dunque? Rispettata. E dunque? E dunque tutti quelli che fino ad ora, compreso in Molise, sono stati già dichiarati decaduti la legge Severino, credo che questa legge vada applicata anche alle altre persone per il futuro. E dunque anche a Berlusconi? Anche a Berlusconi, se rientra in questa... No, categoria. Vabbè, se rientra, ma perché deve essere così diplomatico? Di Giacomo, lei è vero che ha un interesse preciso, uno potrebbe equivocare, però lasciamo perdere il suo interesse. Lei pensa che sia giusto che Berlusconi decada? Se lei mi vuol far dire questo. Ma no, ma le dico quello che lei sta dicendo, ma che non vuole dire esplicitamente, rifugiandosi dietro delle frasi. No, soltanto per dirle che non è una mia speranza, è la constatazione. Siccome quelli del PDL dicono altre cose, quelli del PDL ne dicono che è incostituzionale, che Berlusconi è un leader politico e non può essere stromesso dal Senato, eccetera, eccetera, eccetera. Lei mi sta dicendo invece, secondo la legge Severino, è giusto che decada da parlamentare. Questo è. Ma veda, qui nel Molise noi siamo sempre una regione particolare in tutto, no? Lei probabilmente questo particolare non lo conosce, ma la prima persona ad essere dichiarata decaduta per la legge è stato nel Molise. Vabbè, ma allora lasciamo perdere la cosa. Ho capito, lei l'ha già detto, traffico. La zanzara. È ancora in casa, Emo. Tormenta la mia noce. Passa in blanco. Oh, Sallustia, 8:30, appena detto, se non sbaglio, non è la giustizia a decidere cosa è giusto e sbagliato. Il concetto non è del tutto folle. C'è la verità della giustizia e poi ognuno si comporta come gli pare. È con noi Ulisse Di Giacomo, dicevo, anche su questo ci possono essere delle considerazioni personali. Sì. Le stavo dicendo, dottor Luciano. No, però scusi, Di Giacomo, abbia pazienza. Lei dice è giusta la decadenza. Ora io voglio capire una cosa. Lei quanto spera? Ha detto Parenzo prima, sta contando i giorni, diciamola tutta. Non è vero. Non è ma vero. Come no? Su, non lei vuole tornare al Senato? Ma dai. Le dico che non è vero. Questa cosa io già l'ho detto in tempi non sospetti, quando non si prefigurava affatto questa storia della decadenza del presidente Berlusconi. Che io sono già stato senatore nella legislatura precedente. Vabbè, però non è mai male tornare, Sì, ma voglio dire, non è che mi cambia proprio la vita, capisci? Non è che io mi strappo i capelli se la cosa... Ma si dice sempre così, si dice sempre così. Però non è che si dice sempre così, le posso dire che per me è così. Parenzo, secondo te vuole tornare al Senato, Di Giacomo? Ma sta contando non i minuti, non i secondi, i frame sta contando, sì, ma giustamente... Scusi Di Giacomo, ma non c'è niente di male, non lo diciamo io mica. Io farei così. Poi lei ha detto anche un'altra cosa, ha detto che questo governo non deve cadere, giusto? Ecco. L'ha detto sennò cade lui. Per la verità, io sto ancora alle dichiarazioni di Berlusconi. No, ma io voglio sapere quello che pensa lei, non quello che pensa Berlusconi. Noi siamo Ulisse Di Giacomo, mica Silvio Berlusconi. Allora, dottor Cruciani. Berlusconi ha detto prima e dopo la sentenza. Sì, è vero, non ha detto mai nulla contro il governo Letta, d'accordo, però io scusi. Sono rimasto a quello, essendo io del Popolo della Libertà, sono rimasto a quello che il mio presidente nazionale ha detto. Però scusi, lei è del Popolo della Libertà, ma è l'unico del Popolo della Libertà che sostiene che Berlusconi deve decadere, cioè attenzione, per cui No, guardi, questo me l'ha fatto dire lei. Io ho detto ma come l'ha fatto dire lei? Ha detto no, c'è una legge va applicata, Berlusconi, c'è una legge va applicata. C'è una legge che è stata già applicata in casi simili. Ho capito, infatti. Credo che vada applicata per tutti, anche per gli altri che si trovino nella stessa situazione. E cioè Berlusconi. Però scusi un attimo, Di Giacomo, questo governo deve continuare, deve durare il più possibile, o sbaglio? Io penso che questo paese abbia bisogno di avere un governo in questo momento. La stabilità, benissimo. Il governo Letta, a mio modestissimo parere, sta anche facendo bene. Sta facendo bene. C'è il problema dell'IMU, c'è il problema dello scatto del punto dell'IVA. Sì. C'è un problema della nostra economia che per essere rilanciata ha bisogno assolutamente di stabilità. Benissimo. Qui. Per cui abbiamo assolutamente bisogno di avere... Questo scarica il cesso, una cosa delle sue funzioni. Scusi, ma è Parenzo che sta scaricando il cesso. Non l'ha fatto per lei, per carità, non l'ha fatto per lei. E allora io ho detto, e ripeto qui, che dovessi io essere presente in Senato prossimamente, voterò per far avere a questo paese un governo, perché voterà sempre la fiducia e te credo, non ci possiamo permettere il lusso di non avere un governo. E te credo, lei subentra adesso al Senato molto probabilmente, e dunque vuole che questo governo duri il più possibile. Poi per carità, la durata del governo, la stabilità e tutto, però io voglio capire una cosa: se il PDL dovesse lasciare il governo, lei invece è pronto a votare la fiducia? Ad un nuovo governo? Sì, no, al governo Letta, o un nuovo governo Letta, ovviamente. Ad un nuovo governo Letta. Io credo che nel caso di una crisi di governo e nell'ipotesi di un governo diverso da questo, ci sarebbero molte persone disponibili a mantenere un governo in piedi. Ma per le ragioni che le ho detto. Tra cui lei, no? Tra cui lei. Ma l'ho già detto, io voterò comunque per avere un governo. Questo paese. Parenzo, che dici? Ma cosa dico? Non è del PDL, lui... non sembra più del PDL il signor no, Di Giacomo. No, dico che è una persona. Dico che finalmente abbiamo invitato una persona sincera, perché Ulisse, il mio amico Ulisse, il mio nuovo amico. Ulisse è un bel nome, ogni sera, Ulisse. Molto bello. Io ogni sera voglio avere un nuovo amico, lui è il mio nuovo amico Ulisse. È lì che gode come un riccio all'idea, giustamente, di dire cazzo, questa volta finalmente. Va fuori dal Senato. E lui entra, e in più è ovvio che dice la perché stabilità. Gli aveva dato la fregatura, perché gli aveva dato prima la fregatura scegliendo il Molise, hai capito? Certo, è lì che si frega. E c'è la rivincita, e Di Giacomo, ragione, Ulisse, no, quanto è contento di questa rivincita lei, signor Ulisse? Se le dico la verità, lei poi non mi crede, quindi... Ma è contento, dai, è contento della rivincita, almeno questo, cioè via Berlusconi dentro Di Giacomo, dentro Ulisse, via il cosiddetto banana dentro Ulisse, bellissima cosa, fuori il banana dentro Ulisse. No. Caro Di Giacomo, la ringrazio e l'abbraccio. Grazie a lei, dottore. Salvatore da Modena. Sì, mi dica. Io volevo soltanto, la sento tutte le sere, quindi complimenti come al solito per la trasmissione. Sì, la richiamo domani. Angelo dalla provincia di Bari. Angelo, velocissimo. richiamami domani. No, dimmi. Ora. Dimmi. E che ti devo dire? Che sei diventato un beccamorto, Un beccamorto? Dimmelo ai tuoi radioascoltatori. Te stai mandando tutta puttana e lo stai facendo apposta a mandare la trasmissione a puttane perché andrà in televisione. Ma che cazzo dici? Dai, ci sentiamo domani alle 18.30, ciao. Tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. Radio 24, la passione si sente.